questo momento Graziella Mascia, l'onorevole Mascia, è entrata proprio con il vicequestore. È stato chiesto al vicequestore dalla Mascia come mai non mandavano via i carabinieri che si sono spostati in fondo. Sapete qual è stata la risposta del vicequestore? Finché ci chiamano assassini, da qui non ce ne andiamo. Provo a fargli delle domande, vediamo come va a finire. Scusi, Radio Popolare in diretta, quanti feriti ci sono tra i manifestanti? Non ho dichiarazioni da fare. Ci dica almeno i feriti. Non sono in grado di dirglielo, francamente non lo so. Ma perché avete fatto un'operazione del genere? La gente ha diritto di saperlo. Guardi, io non sono autorizzato a parlare, quindi non conosco neanche le dinamiche. Se non oggi io posso parlare delle dinamiche che sono venute nel punto di teoria, degli altri non... Dinamica cosa intende? Parlandosi chiaro, qui avete picchiato le persone, sono uscite di feriti. Io sono stato chiamato per fare in maniera che i miei potessero uscire di qua, di più non lo so dire. Ma si rende conto, sono usciti 21 feriti che abbiamo visto per ambulanze, per stati della polizia e dei carabinieri, scusi. Io sento questo da lei. Come sente da me? Ma... Lo sento da lei perché io sono... Questore, scusi, l'abbiamo visti tutti fuori. Non si sono fatte male da soli. Non ho messo in dubbio ciò che lei ha detto. Ho detto che lo sento da lei e che non lo so io, quindi tutto qua. Cioè, lei non sa che ci sono 20 feriti? No, non lo so, io stavo facendo tutt'altro lavoro. Mi hanno chiamato e mi hanno detto vai di corsa alla scuola perché c'è una situazione di ordine pubblico. Questo è tutto. Ma lei è vicequestore? Sì, lei è vicequestore, sembra l'intervento non l'ho mica fatto. E chi è che ha fatto un intervento di questa portata? L'ha fatto un altro ufficio, non sono io. Io sono responsabile di un altro settore, sono intervenuto per un problema di ordine pubblico. Qualunque spiegazione io le possa dare, sarebbe una spiegazione basata su una non conoscenza dei... C'è un altro ufficio, cos'è, dei carabinieri? No, lei si rende conto che sta camminando con noi in mezzo a una situazione di disastro, con tutto rotto, cioè lei dice che non sa nulla, scusi. Cioè, mi sembra... Il suo direttore sa tutto ciò che lei vede per strada prima che lei glielo riferisca. Sì, ma il mio direttore non comanda, caro mio, non ha responsabilità come lei, scusa. Ha responsabilità a volte anche più grosse. Io non sono il questore, sono solo vicequestore. Avete sentito la risposta, mi sembra... Clamorosa, in negare l'evidenza, una cosa veramente scandalosa che... Un paese democratico che un vicequestore di Genova che avete sentito in diretta abbia risposto in questo modo dentro Media Center di fronte a una situazione di garantista di come ci fosse passata una ruspa con 20 feriti passati davanti alle telecamere d'Italia, questo signore ci ha detto, lo dice lei. Al primo piano dove le chiazze di sangue sono assolutamente non raggrumate, in contraddizione con quanto è stato, se ne abbiamo sentito adesso, che è stato dichiarato dal portavoce della polizia. Fra parentesi, ci sono anche segni sulle scale di sangue, di strisciate di sangue, come di una persona trascinata. Le tracce di sangue ci sono numerose qui al primo piano e sono mescolate anche con gli effetti personali, nel senso che sono stati buttati sopra alla rinfusa gli oggetti che evidentemente sono stati buttati per terra e sparpagliati e spaccati. L'agenzia ANSA scrive in questo istante che i feriti sono 52 e se voi tenete conto che in tutta la giornata di oggi ci sono stati 228 feriti, secondo l'ultimo bilancio, ebbene questa, che viene definita con un tragico eufemismo, perquisizione, in pochi minuti ne ha fatti 52. Questo è quello che ha visto il giornalista dell'ANSA. Ovunque vetri rotti, computer spaccati, tavoli danneggiati e rovesciati, gli indumenti personali dei ragazzi strappati e sparsi dappertutto. Ai piani superiori, sui pavimenti risultano evidenti grosse macchie di sangue ancora fresco. Allora, siamo in diretta, ininterrottamente da ieri, a mezzogiorno di ieri, sono quasi le 2:30. Sono le 2:30. Vi stiamo raccontando vicende che facciamo quasi fatica a credere, sicuramente molta fatica umana a commentare.